Inizierà il 28 luglio la nuova edizione della Fiera di San Lazzaro. Ne parliamo insieme ad Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena. Intanto buongiorno e grazie per la disponibilità. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. L'edizione di quest'anno è un grande traguardo, un importante traguardo. Sono 190 anni di fiera. Qual è la storia però di questa rassegna? È proprio così, questa è l'edizione 190 e devo dire che è anche un'edizione di ritorno alla vita, perché per 2 anni siamo stati fermi a causa della pandemia e questa fiera, che è così radicata nella storia del territorio, è stata sospesa soltanto un'altra volta, e cioè durante il secondo conflitto mondiale. Quindi immaginate che cosa significhi ritornare alla vita, riprendere la fiera nella sua 190esima edizione. La storia è molto interessante, perché è anche molto suggestiva, perché la fiera rappresentava fin dal 1830 un vero e proprio expo, cioè una fiera a tutti gli effetti, un luogo nel quale andare per vedere tutte le novità legate agli aspetti dell'agricoltura, ai nuovi attrezzi, piuttosto che ai nuovi animali per la fattoria. E quindi era un luogo di meraviglia, di apprendimento di cose nuove, nel quale vedere dove ci avrebbe portati il futuro. Ed è un po' questo lo spirito con cui abbiamo ripensato la fiera di quest'anno, facendo in modo che potesse coinvolgere tante generazioni, tutte le generazioni, in tanti luoghi del territorio durante tutta la giornata e soprattutto tentando di suscitare nuova meraviglia. Insomma, un appuntamento storico che finalmente torna a coinvolgere la popolazione e il territorio anche. Quale sarà il programma di questa edizione? Innanzitutto la grande novità della fiera di quest'anno, che sarà un po' la novità, diciamo, che poi diventerà tradizione, perché abbiamo incentrato il tema tra innovazione e tradizione e innovazione, perché è diventata tradizione il fatto stesso che la fiera fosse un luogo in cui si innovava. E tra le varie novità di quest'anno, che poi diventeranno tradizione, c'è anche il fatto che la fiera non riguarda più soltanto una programmazione serale, perché in passato è stato così, ma avremo appuntamenti dalle 5 del mattino fino alle 2 di notte, fino all'1 di notte, perché abbiamo creato una vera rete di tutte le realtà del territorio, realtà sportive, realtà commerciali, realtà ristorative, ricettive, e quindi dalle 5 del mattino, 5 e mezza, avremo i risvegli muscolari e lo yoga all'alba, e poi tante attività che coinvolgono il Museo Donini, il Parco dei Dinosauri, tante attività sportive, tante associazioni, la mediateca e insomma tutti i luoghi di riferimento della città, proprio per poter visitare, comprendere appieno il valore di questa terra. E poi fino anche agli aspetti invece serali, con un programma musicale molto interessante, dove avremo tantissimi ospiti. Un'altra novità molto interessante è che il Parco della Resistenza viene gestito dai ragazzi di Peacock Club, dall'associazione Peacock Club, e ci saranno tantissime proposte musicali, sia DJ Ralph il venerdì, Donatella Rettore nel palco centrale il 30 di luglio, gli Extraliscio il 29 luglio, e tantissimi artisti veramente di grande qualità che animeranno tutto il territorio, da Piazza Bracci, il Parco 2 Agosto, la Corte del Comune, che diventerà Mocambo perché era un locale storico di San Lazzaro proprio nella Corte del Comune, e quindi lo faremo ritornare a nuova vita, e poi appunto il Parco della Resistenza. Altro elemento per noi molto importante è il padiglione innovazione, perché all'interno del padiglione innovazione noi avremo modo di presentare, un po' proprio come una vera fiera, tutte le innovazioni legate al territorio, e cioè anche come diventerà San Lazzaro di qui ai prossimi 10 anni, i nuovi progetti urbanistici, i nuovi progetti per la piazza, i nuovi progetti legati a strutture pubbliche, e quindi si potrà vedere anche che tipo di innovazione sociale, culturale, urbanistica stiamo cercando di portare avanti. Quindi sono 4 giorni densissimi di appuntamenti che rappresentano un vero e proprio expo indipendente che porta avanti le innovazioni e le idee del territorio. E le location saranno sparse per San Lazzaro? È così, questa fiera si estende nel tempo, come ho detto prima, perché chiaramente avrà un programma anche diurno, diciamo così, oltre che quello notturno classico, ma anche nello spazio. E quindi tutti i luoghi del territorio, tutti i luoghi più suggestivi vengono coinvolti, non soltanto sotto il profilo naturalistico, per cui avremo trekking sui calanchi, visite in grotta, la grotta del Farneto, Avremo percorsi di trekking urbano sul percorso dei murales del nostro territorio, avremo visite nelle aziende, penso alla Montenegro che farà fare visite in azienda, degustazioni dalle vecchie botti di vecchia Romagna, quindi insomma c'è veramente un coinvolgimento del territorio a tutto tondo e quindi non soltanto sotto questo profilo, ma anche sotto il profilo delle varie realtà culturali che animano il territorio. Penso a Fondazione Cirulli, attraverso la quale si potranno fare mostre e percorsi, penso al coinvolgimento del nostro teatro, del Teatro dell'Argine, al coinvolgimento della Mediateca, quindi ci saranno sia luoghi istituzionali che luoghi privati che diventeranno accessibili per tutti, che luoghi naturali da visitare e da esplorare. Benissimo, invece le modalità di partecipazione quali saranno? Allora, sul sito www.fieradisanlazzaro.it sarà possibile accedere al programma e verificare anche la stragrande maggioranza, lo sottolineo, cioè tutti i nostri spettacoli serali musicali sono gratuiti a libero accesso. Ci saranno invece alcune attività che dovranno essere svolte, per esempio, da realtà private, penso ad alcuni agriturismi che faranno anche lezioni di sfoglia o piuttosto che laboratori per intrecciare la lavanda. Ecco, alcune di queste attività che sono gestite dai privati avranno bisogno di una prenotazione ed eventualmente di un gettone di partecipazione, quindi di un pagamento per l'attività, ma sono attività marginali e per ciascuna di queste attività sarà possibile prenotare direttamente online dal sito e verificare quale potrebbe essere il prezzo. Ma tutto quello che riguarda la fiera classica nel programma serale è sempre tutto a libero accesso e ad accesso gratuito. Una rassegna ricchissima, quella della Fiera di San Lazzaro, dal 28 al 31 luglio. Grazie mille Isabella Conti per essere stata con noi. Grazie Grazie a davvero. voi, vi aspettiamo Volentieri. tutti. Buona giornata. Grazie.